Ehi, ho comprato il nuovo CD The Brodats. Tanto vale comprarsi un biglietto di sola andata per una tomba di acqua di mare. Che Il c'entra? Tuggermaut è la più micidiale e crudele creatura che abbia mai abitato E l'oceano. sti Secondo cazzi? la leggenda, vive al largo della baia del pesce che puzza. Uccide chiunque si avventuri da quelle Sì, ho parti. capito, ma... Io l'ho visto una volta. Certo, non ci vedo da un occhio. E l'altro me l'ero irritato quel giorno a furia di sfregarlo. E poi ero stanco. Mi ero fatto tre vasche in una piscina con troppo cloro. Arrivederci, E in eh. quel periodo avevo i miei occhiali da aggiustare, ma ho visto quel pesce!